30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Gli Shabab, ritenuto il braccio armato somalo di Al-Qaeda, hanno vinto la battaglia di Kismayo, strategico porto ed aeroporto del sud del paese. Dopo violentissimi scontri hanno espulso dalla città i loro ex alleati di Hezbollah Islam. Intanto la ripresa dei combattimenti a Mogadiscio, capitale della Somalia, ha costretto alla fuga gran parte degli abitanti nei distretti di Yaqshid, Karan e Abdulaziz, nel nord della città. La capitale somala, insomma, è sprofondata nuovamente nel caos. Buonasera e benvenuti a 30 minuti in cronaca, io sono Gigi Donelli, questa sera dunque parliamo di Somalia con due colleghi, sono Giampaolo Musumeci e Ugo Borga, che con Matteo Fagotto hanno appena realizzato un documentario appunto nella capitale della Somalia. È tutto bello quando c'è la pace, tutto è bello, l'aria, tutto è bello, il mangiare, andare a divertirsi, tutto è bello. Non come ora che siamo in mezzo al fuoco. È tutto bello quando c'è la pace, dice questa voce che ci arriva in buon italiano proprio dalla Somalia. È un estratto di un documentario radiofonico intitolato 3 minuti a Mogadiscio, l'abbiamo trasmesso, potete ritrovarlo e risentirlo nello spazio dei reportage di Radio24.it naturalmente. Allora, Giampaolo Musumeci e Ugo Borga, che ringrazio di essere qui con noi questa sera. Innanzitutto, Giampaolo, perché 3 minuti a Mogadiscio? Beh, buonasera Gigi. Beh, 3 minuti perché molto semplicemente è il tempo di sopravvivenza, in realtà dai 3 ai 5 minuti, di un occidentale senza scorta una volta che atterra a Mogadiscio. Cioè, senza appunto una scorta armata e adeguata preparazione, una persona atterra all'aeroporto, va al banco immigrazione e una volta che varca il cancello blindato dell'aeroporto ha dai 3 ai 5 minuti prima di essere rapito oppure ucciso. Ecco, in tutto questo a Mogadiscio si arriva come? Con un volo speciale, circostanze complesse oppure con un banale volo di linea? È un banale volo di linea, ma in realtà i tratti più che banali sono surreali, perché è la Dallo Airlines che fa la tratta Djibouti-Hargeisa-Mogadiscio con dei vecchi quadrimotori degli anni 60, e noi abbiamo avuto la fortuna di compiere quel volo con questo equipaggio russo. Era molto divertente, molto quasi folcloristica la cosa, perché si occupavano evidentemente sia della meccanica dell'aereo che del catering all'interno dell'aereo che del pilotaggio, insomma. Ugo Borga, come mai si sceglie di andare a Mogadiscio visto che il tempo di sopravvivenza medio è quello dei 3 minuti per un giornalista bianco occidentale? Mogadiscio perché è una guerra dimenticata, Mogadiscio perché il fatto che nessuno riesca ad andarci perché le condizioni di sicurezza non lo permettono significa trovare e poter raccontare delle storie che meritano di essere raccontate. Ecco, la storia dunque naturalmente delle persone, abbiamo sentito una voce che dicevo in un buon italiano. Chi era innanzitutto quel signore? Questo signore è un magazziniere, lavora per Mohamed Farasiad, che è un imprenditore di Mogadiscio, che riesce nonostante mille difficoltà a continuare a lavorare. E ci siamo rifugiati presso questo imprenditore un giorno che stavamo lavorando a Mogadiscio. Sono scoppiati dei combattimenti e per 10 lunghi minuti abbiamo cercato di rientrare in quella che era la nostra abitazione. Alla fine abbiamo trovato rifugio presso questo imprenditore e abbiamo incontrato questo magazziniere che ci ha rilasciato un'intervista sorprendente proprio per la sua poesia, in qualche modo. Ecco, questo significa che in realtà il popolo somalo non si è affatto abituato alla violenza, alla crudeltà quotidiana, ma ha conservato una capacità critica rispetto a quello che succede, che ovviamente ne aumenta la sofferenza. Ecco, Giampaolo Musumeci, noi della Somalia riceviamo di fatto dei flash, delle informazioni brevi, di solito delle agenzie, ma invece ricordiamo episodi drammatici, però ormai anche di qualche anno fa, la battaglia di Checkpoint Pasta, la battaglia dei Black Hawk addirittura abbattuti sulla città, che poi è diventato anche un film, come dire, di grande intensità. Ma sbarcando oggi a Mogadiscio, che tipo di città avete incontrato? È una città fantasma, è una città in cui non ci sono più palazzi, ci sono rovine di palazzi. è una città che è più che dimezzata della sua popolazione, quindi gli oltre 2 milioni di abitanti sono diventati circa 1 milione, gli altri affollano i campi profughi dove manca tutto. È una città che noi abbiamo potuto vivere solo in parte, è stata in realtà un'esperienza abbastanza schizofrenica, perché proprio per la natura del luogo è estremamente pericoloso, e siccome il giornalista bianco è un target e nessuno doveva sapere che eravamo lì, noi viaggiavamo a circa 100 all'ora, percorrevamo queste strade polverose, dentro a jeep con i vetri oscurati, per cui, come dire, le sensazioni che avevamo era di un film visto a velocità raddoppiata, quadruplicata, in cui vedevamo ombre di donne, schegge di bambini, vedevamo carretti di frutta velocissimi che ci passavano davanti agli occhi, ma non riuscivamo quasi mai ad afferrare Mogadiscio. Quando lo facevamo, potevamo farlo per, in luogo aperto, massimo 30 secondi, un minuto. Si scende, si fa una foto, si raccolgono rumori o audio o suoni col microfono, si ritorna in macchina e si parte a tutta birra, perché sostare di più vuol dire essere morti. Ugo, quanto è complicato organizzare un viaggio? Perché immagino ci siano dei costi di scorta, dei costi appunto di luoghi, e poi c'è un enorme problema di fiducia, perché sostanzialmente alla fine ti metti in mano qualcuno di cui è bene fidarsi. Ecco, hai detto benissimo, il problema principale a Mogadiscio è proprio trovare qualcuno di cui fidarsi. Non è possibile fidarsi delle milizie governative, perché appartengono a clan diversi e di fatto non sono controllabili. È successo il caso dei due 007 francesi, lo conferma, insomma, sono stati venduti dalle stesse milizie governative pochi giorni dopo essere arrivati in Somalia per svolgere il loro lavoro. Fidarsi dunque è la questione chiave. Voi come vi siete regolati? Ma io ho lavorato a Mogadiscio nell'agosto del 2007, lì ho incontrato una persona di cui ovviamente non posso fare il nome per ragioni di sicurezza, con cui è nato un rapporto di stima reciproca e di amicizia. Ecco, è l'unica persona di cui potevamo fidarci a Mogadiscio e in qualche modo abbiamo affidato le nostre vite, ma anche il nostro lavoro, l'organizzazione del nostro lavoro, quindi la ricerca dei contatti, la realizzazione degli appuntamenti, eccetera. Ecco, questa persona nella vita cosa fa? Questa persona nella vita si occupa di proteggere in qualche modo le persone che arrivano a Mogadiscio, soprattutto i somali ovviamente, perché non ci sono occidentali a Mogadiscio in questo momento, e che devono attraversare la città o devono incontrare qualcuno in città, e lavora anche ovviamente con molti giornalisti di tutto il mondo, giornalisti di Le Monde, del New York Times, eccetera. È una persona molto precisa nel suo lavoro, molto capace. Ecco, puoi darci un'idea anche di quanto costi fare un reportage a Mogadiscio? Ma i costi sono molto alti, ovviamente. Si parla di $850 al giorno di media per lavorare a Mogadiscio. Ovviamente non è sufficiente disporre di quel denaro, occorre anche l'ok della persona di cui ci si fida, perché anche pagando di più, se la persona è affidabile, sicuramente risponde negativamente. Abbiamo aspettato 2 anni, abbiamo lavorato 2 anni alla realizzazione di questo reportage e siamo partiti immediatamente, pochi giorni dopo aver ricevuto l'ok. Una lunga attesa dunque, una lunga attesa per poi entrare in questa specie di frullatore anche che ha descritto poco fa Giampaolo, raccontando di questo stop and go continuo. Non c'è la paura che in questa grande corsa non ci sia l'opportunità poi di cogliere Mogadiscio? Sì, infatti è il grande rammarico, no? Siamo partiti dopo 9 giorni, che non sono pochi, 9 giorni di hit and run, appunto, cioè vai, colpisci e scappi, in cui abbiamo potuto solo afferrare scampoli, no? Frammenti di voci, qualche immagine, qualche sensazione, e una volta tornati in Italia la sensazione era vorremmo tornare, vorremmo riascoltare la voce di Abukar che abbiamo sentito, vorremmo riparlare con Mohamed, perché hanno tantissime cose da raccontare, è una guerra veramente dimenticata, sono 19 anni che la Somalia grida al mondo la sua voce e ci sono voci e storie che non aspettavano altro che qualcuno che andasse lì col microfono. In qualche modo abbiamo un po' di orgoglio, perché abbiamo un po' rotto questo meccanismo perverso che continuava a dire a Mogadiscio non si può andare, a Mogadiscio non si deve andare, se vai a Mogadiscio sei morto. L'abbiamo organizzata con cura, l'abbiamo preparata lungamente, però insomma siamo soddisfatti perché abbiamo rotto questo meccanismo, cioè bisogna parlare di Somalia, bisogna parlare di una guerra dimenticata, bisogna portare il microfono a Mogadiscio. Mi avete raccontato che più di una volta, voglio dire, come poi accade anche persino a Mogadiscio, pensavo comunque alle situazioni in generale di complessità di guerra, avete trovato delle persone per bene, avete trovato delle persone che cercano nonostante tutto in questa follia appunto che perdura da molti anni di condurre una vita normale. Sì, è molto difficile condurre una normalità, un po' per quello che diceva Ugo prima, nel senso che comunque 19 anni di guerra civile, è vero che loro hanno degli anticorpi belli, belli forti, no? Rispetto alla guerra, però è anche vero che devi lottare continuamente, perché esci di casa al mattino e non sai se tornerai a casa la sera. Però si va al mercato, c'è il Bakara Market, che è un luogo meraviglioso che noi abbiamo visto da lontano, perché è il luogo più pericoloso del mondo, nella città più pericolosa del mondo, perché un giorno sì, un giorno no, arriva un colpo di mortaio. Nonostante questo la gente ci va tutti i giorni, carretti di verdura, il pesce, la carne, cioè c'è vita. Attorno a questo c'è tutta un'economia che si muove in maniera anche grottescamente divertente, tragicamente divertente. Succede che un cammelliere, noi siamo stati svegliati nel cuore della notte da raffiche di mitra, vicinissima al luogo dove alloggiavamo, l'indomani mattina abbiamo trovato 12 cammelli, 12 cadaveri di cammelli. Un cammelliere veniva da fuori Mogadiscio, viaggiava di notte per avere il fresco, doveva andare al Bakara Market a vendere i suoi cammelli. E schegge di economia impazzita, no? Verrebbe un po' da dire. Come questi due businessmen, uno portoghese e uno del Bahrain, che in questo preciso momento storico in cui veramente a Mogadiscio è difficile andare, non solo sono andati lì, ma hanno comprato due pezzi di spiaggia per farci un ristorante. Ecco, domani. Quindi tutto va avanti, però ti sei dimenticato di dirci una cosa: i 12 cammelli come sono morti? Sono giustamente. I 12 cammelli sono morti perché ai loro il cammelliere non sapeva dove li stava portando. Li ha portati quindi, nella strada sbagliata. Nella strada sbagliata. La strada era quella gestita e controllata dalle truppe dell'Unione Africana. L'ordine è: dal tramonto all'alba c'è un coprifuoco, niente e nessuno può passare da lì. Per cui. Fuoco. Sì. 30 minuti in cronaca. Noi, il nostro bisogno è trovare il comando, costruzione del comando, arredare il comando. Dopo, per preparare una scuola adatta per l'addestramento. Scuola marittima. Una scuola marittima, naturalmente, militare. Dopo di questo, noi dobbiamo trovare barche, grandi barche. Le navi sono sparite, di che navi stiamo parlando? Siamo naturalmente a Mogadiscio, siamo in Somalia, parleremo tra un momento anche come dire, del ruolo dei pirati in questa attualità somala, ma qui c'è un signore che parla di navi sparite. Le navi sparite sono quelle della Marina Militare Somala. Abbiamo incontrato lo Stato Maggiore della Marina sulla linea del fronte e abbiamo assistito a questa scena tragicomica, purtroppo ce ne sono, capita spesso in queste situazioni. Abbiamo assistito alla scena di uno Stato Maggiore della Marina che faceva proclami rispetto alla conquista, alla distruzione delle basi dei pirati somali e ci siamo poi resi conto che stava parlando di qualcosa che non esiste, perché non hanno le navi, le navi della Marina Militare Somala sono state rubate. Quindi le navi della Marina Militare Somala sbattono bandiera dei pirati, semmai, ammesso che ci siano ancora. Pare che alcune di queste navi siano state trasportate dall'ammiraglio precedente nello Yemen e convertite in pescherecce. Insomma, come dire, navi da dimenticare. Eppure in tutto questo, Giampaolo, mi confermi che Mogadiscio è tutt'altro che un porto, come dire, fermo e abbandonato, come ci si aspetterebbe da una, appunto, dalla capitale portuale di un paese così sconvolto, di fatto? No, esattamente come dici tu, grazie anche al controllo delle truppe dell'Unione Africana, ugandesi e burundesi, sono circa 5.000 i baschi verdi che controllano e garantiscono l'accesso a porto e aeroporto, c'è un'economia che si muove, in parte perché anche gli approvvigionamenti di 5.000 truppe, come dire, hanno bisogno, no, di cargo continui che vadano e vengano. E un po' perché ci sono imprenditori, ci sono businessmen che, nonostante lamentino negli ultimi 6 mesi un calo dei fatturati notevole, comunque, grazie anche al link che c'è tra Mogadiscio e Dubai, riescono in qualche modo a portare avanti operazioni di import-export. Quindi è un'economia che, come dire, fino a 6 mesi fa possiamo dire che vivacchiava. Adesso, come ci ha confermato il caso di un imprenditore, Mohamed Farah Siad, lui è passato negli ultimi 6 mesi da $300,000 l'anno a $50,000 l'anno, quindi un crollo vertiginoso. Vita quotidiana, a Mogadiscio si va a scuola? Al mercato abbiamo sentito ci si va nonostante si rischia la pelle per andarci appunto per i colpi, ma i bambini all'inizio io ho letto una notizia, un'agenzia che parla di quartieri passati sotto il controllo appunto delle milizie. La vita a Mogadiscio sembra incredibilmente normale. Noi abbiamo attraversato spesso la via principale che taglia la città e a volte inseguiti dai colpi di mortaio che ovviamente facevano delle vittime tra le persone che circolavano in quella città. Ecco, improvvisamente la gente scappa, ovviamente, terrorizzata dal boato, insomma, da quello che è successo, ma poi entro 10 minuti la vita riprende. Questa abitudine all'orrore non è comunque da confondere con un'abitudine di fatto, cioè bisogna, è necessario uscire di casa perché se si vuole sopravvivere bisogna cercare di portare avanti quelle che sono attività di microeconomia, altrimenti si muore di fame. Certo, anche perché altra vita non è prevista in questa città, ma chi comanda Mogadiscio? Questa è una domanda molto interessante, non lo sappiamo chi comanda Mogadiscio. Mogadiscio è controllata da numerosissime fazioni. Ricordiamo che la Somalia la società somala è divisa in 78 tra clan e subclan che creano alleanze precarie, che si sciolgono nel giro di una notte. C'è il governo di transizione del presidente Sheikh Sharif che in questo momento ha stretto alleanze con dei pericolosi warlords, dei capi clan, che in questo momento supportano quello che è il governo di transizione somalo, ma domani mattina potrebbero non farlo più. Ci sono gli Shabab, ci sono queste milizie islamiche che, da quello che abbiamo potuto vedere, sono legate strettamente ad Al-Qaeda, che controllano gran parte della città e che comunque rendono tutta la città insicura. Non esistono posti sicuri a Mogadiscio proprio perché l'attività è quella di della guerriglia, degli attentati in tipico stile terroristico. E poi ci sono delle milizie freelance che nessuno controlla, che si dedicano più che altro ad attività criminali, come possono essere, come è il traffico di rifiuti tossici, come è il traffico d'armi, come sono i sequestri. Giampaolo, verso la conclusione, c'è un grande scrittore che diceva che tutte le famiglie felici si assomigliano, invece quelle infelici, ciascuna di quelle infelici lo è a modo suo. Ora, tu hai raccontato anche per Radio 24 alcuni degli angoli più complessi dell'Africa. In che modo Mogadiscio è infelice a modo suo? Questa è la domanda da $1,000,000. Quello che ci siamo portati a casa dopo questi 9 giorni di schizofrenia è stata da un lato una grandissima speranza, dall'altro... Per voi o per Mogadiscio? Una grandissima speranza da parte degli abitanti di Mogadiscio rispetto al loro futuro. Nel senso che nonostante la situazione sia tragica, e la cosa particolare di Mogadiscio è che ogni anno si dice non è mai stato così brutto, quindi no, è una rincorsa al peggio, cioè si scava sempre di più. E nonostante questo le voci che abbiamo raccolto erano di grande speranza per il futuro. Dall'altro una struggente malinconia di fondo che permea qualsiasi cosa in quella città. Dal militare, dal miliziano in ciabatte infradito col Kalashnikov, no? Appeso al collo, che stancamente si trascina sulla Maka al-Mukarrama, la via principale, al commerciante che invece con piglio cerca di fare il suo lavoro, di fare commercio, c'è comunque questa profonda, probabilmente consapevolezza che la morte è sempre lì. È lì a un passo, si convive con la morte a Mogadiscio, questo è un dato di fatto. Nonostante tutto c'è grande speranza per il futuro, speriamo, ecco. Grazie a Ugo Borga, a Giampaolo Musumeci che sono qui con noi in studio questa sera, anche a Matteo Fagotto che non c'è ma che ha realizzato il documentario con i colleghi che ricordo potete sentire e risentire come questa trasmissione e tutte le trasmissioni di Radio 24 su radio24.it. Buonasera a tutti e buon fine settimana.